l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Io sono Lucia Cappellucci e questa non può che essere Radio Libriamoci Web. Questa settimana avremo molti articoli, ma piuttosto brevi, e così cambiamo un po' rispetto al solito. Passiamo subito al primo. Da www.repubblica.it. I dati del 2010, Emergency, MSF e AIRC, il podio del 5 per 1000, del 4 maggio 2012. Sono ancora loro le associazioni che ispirano più fiducia tra gli italiani. 10 milioni e 600 mila per l'organizzazione di Gino Strada, 8 milioni e 400 mila per Medici Senza Frontiere, 6 milioni e 200 mila per l'associazione per la ricerca sul cancro. Oltre 400 associazioni escluse. Roma, Emergency, Medici Senza Frontiere e AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, sono ancora loro le associazioni che ispirano più fiducia tra gli italiani e che riscuotono il più ampio gradimento nelle dichiarazioni dei redditi, e in particolare nel foglio dove si può indicare a chi devolvere il 5 per 1000. Ci sono poi oltre 400 ollus che hanno avuto una sola preferenza e pertanto porteranno a casa solo qualche spicciolo. Resistono le associazioni dedicate al golf o agli scacchi, come anche le associazioni varie tra bulli e pupe, gatto randacio o associazioni di vario tipo padane. E quanto risulta dagli elenchi degli ammessi a beneficio del 5 per 1000 nel 2010, pubblicati oggi dall'Agenzia delle Entrate. Emergency, Medici Senza Frontiere e Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro si confermano dunque le organizzazioni di volontariato più gettonate per il 5 per 1000. Per Emergency hanno indicato il codice fiscale in dichiarazione 363.070 contribuenti e l'ammontare delle risorse di 10,6 milioni di euro. Seguono Medici Senza Frontiere, 249.462 per 8,4 milioni e AIRC, 258.461 per 6,2 milioni di euro. La solidarietà spesso però si disperde in troppi rivoli. Sono infatti oltre 400 le onlus che hanno partecipato al 5 per 1000 nel 2010. Sono state ammesse, ma portano a casa ben poco, visto che risulta un solo contribuente che le ha scelte. Ci sono 147 associazioni che con il 5 per 1000 avranno addirittura un contributo totale inferiore a 10 euro. C'è poi la lunga partita degli esclusi. Spicca la Croce Rossa che piacerebbe ai contribuenti, in 29.143 l'hanno segnalata per destinare il 5 per 1000 a suo favore, ma l'Associazione Italiana della Croce Rossa è proprio la prima tra i soggetti che sono stati esclusi. Sul sito della stessa Croce Rossa Italiana, infatti, si spiega che è un'associazione dotata di personalità giuridica, di diritto pubblico ed è quindi esclusa dal beneficio. L'esclusione è certificata anche dagli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate. L'agenzia ha diffuso anche le istruzioni per gli enti del volontariato che possono regolarizzare la propria posizione negli anni 2009, 2010 e 2011 entro il 31 maggio 2012 e rientrare così negli elenchi dei beneficiari. La possibilità, spiega l'agenzia, è riservata ai soggetti che hanno commesso degli errori nella presentazione della dichiarazione sostitutiva. Rimaniamo sempre in Italia per le prossime notizie. Da Libera Informazione, l'Osservatorio sull'informazione per la legalità contro le mafie, del 3 maggio 2012, della redazione. 100 passi, i sindaci in marcia nel nome di Peppino Impastato. Graziano Del Rio, presidente dell'ANCI. Contro le mafie c'è bisogno di una nuova resistenza. I 100 passi verso il 9 maggio, insieme da nord a sud. 100 passi, in fascia tricolore per ricordare Peppino Impastato, l'attivista e giornalista ucciso dalla mafia nel 1978 a Cinisi, vicino Palermo, per il suo impegno civile contro i boss. Quei 100 passi verranno percorsi da sindaci di tutta Italia, assieme agli studenti, il 9 maggio per iniziativa di avviso pubblico, la rete degli enti locali contro le mafie, dell'Associazione Casa Memoria Felice Peppino Impastato e del CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. Le infiltrazioni sono un grave problema per il paese, ha detto Graziano Del Rio, presidente dell'ANCI, che parteciperà al corteo. C'è bisogno di una nuova resistenza, di un'alleanza che unisca le forze dello Stato, delle imprese, delle associazioni e dei cittadini. I comuni devono contribuire con la trasparenza negli atti amministrativi e coloro che cercano scorciatoie alleandosi con le mafie non meritano la nostra protezione. La manifestazione, ha spiegato Giovanni Impastato, presentando l'iniziativa Fratello dell'attivista ucciso, vuole essere un riconoscimento ai sindaci che, in risposta alla decisione del sindaco leghista di Ponteranica nel 2009 di eliminare ogni riferimento a Peppino dalla biblioteca comunale del paese, hanno dedicato una strada alla sua memoria. Avviso pubblico, accettato la proposta lanciata da Giovanni Impastato e dall'associazione Casa Memoria Impastato, ha dichiarato Gabriele Santoni, vicepresidente di Avviso Pubblico, perché ritiene importante, fondamentale, in un momento come questo in cui la gente ha perso la fiducia nei confronti delle istituzioni, che gli amministratori locali, che giornalmente lottano contro le mafie, si uniscano in una città simbolo come quella di Cinisi, per dimostrare che si può ancora lavorare al rinnovamento del nostro paese. Questa iniziativa sarà un momento di crescita anche per la nostra associazione, per continuare insieme a sostenere i valori della legalità democratica e costituzionale. A Cinisi, nella sala del Consiglio Comunale intitolata proprio a Peppino Impastato, Avviso Pubblico presenterà l'8 maggio il rapporto Amministratori sotto tiro. Circa 200 minacciati in tutta Italia. Siamo assieme ai sindaci, ha detto Don Armando Zappolino, presidente del CNCA, perché vogliamo che la politica sia in grado di togliere alla mafia la ricchezza e di restituircela. Per maggiori informazioni potete andare su www.avvisopubblico.it. L'eco del silenzio. Sempre da Libera Informazione, che ricordo essere l'osservatorio sull'informazione per la legalità e contro le mafie di Libera, Reggio Calabria, del 4/5/2012, di Anna Foti. 15.000 imprese calabresi soffocate dalle 'ndrine. Presentato il 13° rapporto di SOS Impresa. In Calabria, ancora poche le denunce. Racket e usura minacciano l'economia italiana. 200.000 imprese alla gogna, con un giro di affari che si aggira sui 20 miliardi di euro ed un fatturato delle mafie che arriva ai 150 miliardi di euro. Le mafie si confermano un importante gruppo finanziario capace di infiltrarsi con la tradizionale richiesta di pizzo, particolarmente al sud, utile per il controllo del territorio, per l'instaurazione di un clima di sudditanza, ma che invece cede il posto a meccanismi di prestanome e di pronta liquidità, a tassi usurai per quanto riguarda l'affermazione del dominio sull'economia, oltre che sul territorio. Queste le modalità di inserimento nell'economia legale, anche con attività di contrabbando, traffici illeciti, contraffazione, gioco clandestino e scommesse. Altro dato che caratterizza il fenomeno attiene alla provenienza dalla provincia di Reggio Calabria del 58% degli imprenditori colpiti, complessivamente 4.500 sulla scala nazionale. Ecco la fotografia scattata dal 13° rapporto, Le mani della criminalità sulle imprese, presentato oggi a Palazzo San Giorgio dal presidente nazionale di OSS Impresa, Lino Busà, nell'ambito del consueto appuntamento promosso proprio da OSS Impresa, presieduta a Reggio Calabria da Rocco Raso, imprenditore di Cittanova, che con altri 11 imprenditori cittanovesi fondò negli anni 90 a CIPAC, una delle prime associazioni anti-racket d'Italia, la prima, in provincia di Reggio, con sede anima proprio a Cittanova. L'incontro odierno ha focalizzato ovviamente l'attenzione sul caso Calabria, in cui su 200.000 imprese, 61.000 nel Reggino, ovviamente si tratta di dati fluttuanti tra l'attivo e l'inattivo, tra il regolare e il sommerso, 15.000 sarebbero, secondo SOS Impresa, vessate dal racket e dall'usura. Gli imprenditori in difficoltà arrivano a pagare fino a 150% annuo di interessi sui prestiti, contro il 120% degli anni passati. Dunque, cresce il tasso di interessi che strozzano l'economia, impedendone lo sviluppo sano, ma non aumenta il numero delle denunce. Non possiamo delegare alla sola magistratura e alle forze dell'ordine il compito di scardinare questo circuito vizioso, ha sottolineato il sindaco di Reggio, Vittorio Piscitelli, al procuratore aggiunto del DDR di Regina, Michele Prestipino, al presidente della Camera di Commercio, Lucio D'Attola, e al vicepresidente della Giunta Provinciale di Reggio, Giovanni Verducci. Ha inoltre contribuito all'incontro moderato da Antonino Marcianò, presidente della Confesercenti Calabria. Letto il telegramma dell'onorevole Luigi De Sena, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, impossibilitato a partecipare, la presentazione si è aperta con la proiezione di un video, La mano sulla spalla, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato da Danila Bellino, ed incentrato sulla storia dell'imprenditore calabrese oggi residente a Roma, Antonio Anile, atteso anche il presidente della Commissione consigliare contro il fenomeno della 'ndrangheta della Regione Calabria, Salvatore Magarò. E queste sono le cattive notizie che vengono dalla Calabria, possiamo però aggiungerne anche alcune positive. Da www.elmensile.it, Italia, 2 attentati in Calabria, ma la gente non ha più paura, del 4 maggio 2012. Il Sud che si ribella continua a fare i conti con ritorsioni violente. Succede a Lamezia Terme, in provincia di Cosenza, dove negli ultimi due giorni si sono registrate due forti esplosioni di chiaro stampo mafioso. L'Ndrangheta in questi giorni sta subendo una forte controffensiva da parte della società civile, riunita tutt'intorno a Don Panizza, divenuto faro di resistenza con la creazione della cooperativa Progetto Sud, dichiaratamente antimafia e con intenti di forte integrazione sociale. Quel prete, venuto dal nord ieri, ha incontrato il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri e il sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza per discutere proprio delle norme utili a smantellare l'egemonia della criminalità organizzata in Calabria. Durante questo incontro è esploso un ordigno davanti a uno studio fotografico e oggi si è avvistato con la deflagrazione di una bomba dinanzi a una pizzeria. In entrambi i casi le vittime degli attentati non hanno riportato danni fisici e non hanno denunciato alcun precedente minaccia o richiesta di racket. Tuttavia, gli investigatori del DDA di Catanzaro pensano che entrambi gli episodi possano essere legati a regolamenti di conti passati. Infatti Raffaele Ventura, fotografo, è il fratello della vittima di 'Ndrangheta ammazzato nel 1996, i cui colpevoli non sono mai stati identificati. Proprio in questi mesi, le autorità hanno deciso di riaprire il caso e questo potrebbe essere stato il motivo dell'avvertimento. La violenza e il clima di terrore, questa volta però, non piegano al silenzio la gente, che sta rispondendo con profondo impegno civile, stringendosi in associazioni antimafia e invocando l'intervento politico in tutti i passaggi chiave. Il tribunale di Lamezia Terme, per mancanza di fondi, potrebbe essere chiuso, ma il sindaco Speranza e molti cittadini stanno protestando affinché la decisione venga revocata. L'eco del silenzio. Silenzio. E per finire, delle brevi notizie un po' da tutto il mondo, raccolte dal sito di eilmensile.it. Da www.eilmensile.it. Mazara del Vallo, migranti, rimpatriati contro ogni legge, del 4 maggio 2012. Un gruppo di migranti egiziani sbarcati il 2 maggio in Sicilia sono stati rapidamente rimpatriati senza avere nemmeno la possibilità di accedere alle procedure d'asilo. Si è trattato, infatti, di un'operazione di polizia senza riconoscimento individuale e basata su una sommaria procedura messa in atto dal burocrate del consolato egiziano. A denunciarlo Fulvio Vassallo su terrelibero.org, un portale. Si tratta di due gruppi di persone arrivati sulle coste di Mazara del Vallo, uno a bordo di un peschereccio e l'altro di un gommone, e subito reclusi in un campo di calcio trasformato in tendopoli. Dopo 24 ore, i minorenni sono stati portati in un centro di accoglienza e gli altri sono stati rispediti in Egitto con un volo partito da Palermo alle 5 del mattino di ieri. Prima di essere rimandati indietro, sono stati sottoposti a un sommario riconoscimento, senza avere possibilità alcuna di essere contattati dalle organizzazioni OIM e ACNUR, che fanno parte del progetto Presidium, finanziato dal Ministero dell'Interno proprio per intervenire in questi casi. Tutto questo, nonostante la CNUR abbia già da mesi denunciato l'impossibilità di comunicare con chi è nel centro di prima accoglienza e soccorso di Pozzallo, una struttura che lo scorso anno ha funzionato peggio di un centro di detenzione, luogo di transito sottratto alle convalide dei giudici a cui sfuggono i consueti rimpatri collettivi eseguiti al di fuori di ogni legge e di ogni direttiva comunitaria. Sempre da Il Mensile, Svezia. Lo sfruttamento dell'IKEA dei prigionieri politici, del 4 maggio 2012. IKEA. Il colosso aziendale che più volte ha cercato di imporsi per i suoi canoni etici è stato travolto da documenti rimasti finora nascosti negli archivi della Stasi, i servizi segreti della Germania del blocco sovietico. Negli anni Ottanta l'IKEA, nei suoi stabilimenti della Germania dell'Est, avrebbe utilizzato i prigionieri politici tacciati di anticomunismo per realizzare i propri prodotti. Una collaborazione forzata che la casa produttrice di mobili più famosa al mondo avrebbe esteso anche ai dissidenti d'oltreoceano. Grazie all'intermediazione della Repubblica Democratica Tedesca, infatti, anche prigionieri di Cuba sarebbero stati coinvolti nella proficua iniziativa con la quale il colosso vedeva assicurarsi manodopera a costo zero. L'accordo con l'arcipelago dei Caraibi sarebbe avvenuto nel 1987. I documenti della Stasi riporterebbero i numeri del contratto, realizzazione di 10.000 tavoli per bambini, 35.000 tavoli da pranzo e 4.000 salottini. Il portavoce dell'IKEA ha descritto il fatto come gravissimo e ha assicurato l'impegno dell'azienda nell'analizzare tutta la documentazione segreta. Concludiamo con una potenzialmente buona notizia, che comunque ci racconta di come il progresso, l'avanzamento di un paese, anche dei suoi diritti, possa passare attraverso l'informazione e la parola scritta. Sud Sudan. Nasce un bimestrale attento ai diritti delle donne, del 4 maggio 2012. Il neonato stato africano del Sud Sudan, lontano dalle brutture del conflitto con lo scomodo vicino Sudan, propone una novità nel panorama culturale di tutta l'area. Misna riporta le dichiarazioni fatte sulle frequenze di Radio Bakita di una giornalista sudanese, Brigitte Sins, la quale ha annunciato la nascita di una rivista totalmente dedicata alle trasformazioni e ai prossimi sviluppi del mondo femminile. Il progetto porterà un nome eloquente, She South Sudan, e partirà subito con un'analisi delle malattie che più frequentemente colpiscono le donne. Nel numero in uscita saranno descritti i metodi per contrastare le varie infezioni genitali. La rivista, le cui vicende si possono seguire già sulla pagina ufficiale, è stata presentata a Juba proprio nel giorno della Giornata Internazionale della Libertà di Stampa. Sarà un bimestrale ed avrà una tiratura di 5.000 copie. Prima di concludere, vi ricordo che sul sito di Libera è già disponibile tutto il materiale per avere informazioni ed eventualmente aderire ai campi lavori di Libera. Per le informazioni quindi potete scrivere a estateliberi@libera.it oppure chiamare telefonicamente allo 06 6977 0335. Ripeto, 06 6977 0335. È sufficiente comunque andare sul sito di Libera per trovare tutte le informazioni. Quindi anche per questa settimana è tutto. Da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.